Primo incontro. Pim volava. Era pilota, aereo e motore. Corpo e mente giocavano insieme, rendendo possibile l'impossibile. Sensazione meravigliosa. Erano tantissimi anni che non volava. E si chiese perché mai avesse rinunciato a un piacere così bello. Scoprì di essere ancora un gran bravo pilota. Capace di voli acrobatici, ma allo stesso tempo leggeri. Con accelerate improvvise, ma senza strappi. Il suo cuore durante le picchiate per qualche istante rallentava il ritmo. Ma non aveva paura, anzi era divertito e felice. Davanti ai suoi occhi si aprivano scenari incantevoli, che vedeva con una chiarezza che solo in parte poteva essere spiegata dal vento gelido di tramontana che rendeva l'atmosfera limpida come il cristallo. Intuì che stava sognando. E capì che in quel mondo onirico aveva il ruolo non solo di interessato spettatore ma anche di attivo protagonista. Osservò prati verdi e colline. Vide un fiume e decise di seguire il percorso dell'acqua azzurra che scorreva veloce. Si abbassò fin quasi a toccare col naso le piccole onde create dal vento. Spruzzi allegri e leggeri gli entrarono nelle narici e capì che avevano un potere rigenerante, perché il suo respiro divenne più lungo e sereno. Seguì un tratto lineare del fiume e poi una curva stretta, che lo costrinse a inclinare le braccia e trattenere il respiro per un lungo istante. Per ammirare il panorama dall'alto volò più in su. Il colore dei prati era straordinariamente verde, quasi brillante, e pulito. Piccole costruzioni di legno circondate da minuscoli laghi sorgevano qua e là, distanti tra loro. Anche le case avevano un'energia serena. Intuì che la luce che circondava quelle case e che le rendeva pulite, ancora una volta quella era la parola che gli veniva in mente, era un'energia di pace e protezione. Non c'era nulla da temere, nulla di cui avere paura in quel territorio. Gli venne voglia di giocare e sentì di essere tornato bambino. Quale gioco migliore di quello di spaventare le mucche intente a pascolare, e le pecore e le caprette che brucavano pacifiche, osservate da cani pastori sdraiati pigramente al sole? Discese in picchiata e scoprì di essere capace di fare un gran rumore, uguale a quello di un motore ruggente a cui si chiede il massimo sforzo. Quel rombo di tuono fece alzare le teste di tutti gli animali, che lo guardarono sorpresi, ma solo per un istante, perché capirono immediatamente lo scherzo e lo fissarono con occhi ridenti. Tornò a volare più su, e poi ancora più su. Scoprì che ogni casetta aveva la sua pista di atterraggio, che terminava davanti a un ampio hangar dal tetto colorato di rosso situato a fianco dell'entrata. Tutte le piccole case erano anche circondate da corsi d'acqua, dove sostavano grandi palloni galleggianti che cambiavano colore a seconda della forza e della direzione del vento. Pim, senza sapere come, capì che quei palloni erano veloci motoscafi pronti a trasportare i proprietari delle case ovunque avessero desiderato. Continuò a godersi la bellezza di quel paesaggio meraviglioso. Aveva la consapevolezza piena di essere vivo, totalmente presente, cosciente delle sue sensazioni, e allo stesso tempo delle sensazioni dell'aria, del vento, dell'erba, degli alberi, delle case, degli animali, dei colori, degli odori, del tutto. In quello stato di grazia poteva percepire il desiderio di contatto proveniente dal mondo circostante. Sentì un leggero e piacevole pizzicore al centro della fronte e capì, senza ombra di dubbio, da che direzione proveniva. Fu così che scoprì che un cane bianco sdraiato al sole aveva stabilito un contatto con lui. Pim ricambiò il contatto e si scambiarono un sorriso dal cuore. Quel gioco gli piacque e provò la stessa piacevole esperienza prima con una nuvola, che gli rispose assumendo la forma di un fiore, poi con un falco che si fermò in volo e lo osservò immobile in cielo, e infine con una foca che nuotava nel fiume ondulando veloce e portando in equilibrio sulla punta del naso grandi gocce d'acqua che faceva saltellare allegramente. Avvertì poi un richiamo più forte, ancora un pizzicore, sempre al centro della fronte. Questa volta a chiamarlo era una casa. Quando la osservò, seppe che era qualcosa, qualcuno, gli venne da pensare, che conosceva molto bene. Scoprì che con quella casa si sentiva. A casa, appunto. Discese planando leggero e vide che mentre toccava terra alla pista di atterraggio cambiava colore assumendo le tonalità di un accogliente arancione. Ebbe appena il tempo di alzarsi e di sentire il contatto dei piedi col fresco dell'erba, che vide due bambini che sprizzavano gioia corrergli incontro con le braccia aperte. L'abbraccio avvenne sospeso nell'aria e fu un mischiarsi ridente di energie che si appartenevano, si ritrovavano e si riconoscevano felici. Pim guardò quei due bambini e pensò che potevano avere più o meno 4 e 5 anni. Erano certamente molto belli, ma quello che colpiva di più era la loro energia, allegra, vivace, gioiosa. Il volto sorridente della bambina era incorniciato da capelli nerissimi che uscivano a boccoli da un cappello blu con attaccato sul davanti, proprio al centro, un grande girasole giallo-oro con spesse foglie verdi scure. Il bambino aveva invece capelli biondi e ricci, e occhi di un azzurro intenso che risaltavano sulla pelle scura per la bronzatura. Anche i loro vestiti erano molto belli. La bimba indossava una giacca rossa di lana cotta tirolese dal bavero ricamato, jeans azzurri e scarpe di gomma marrone. Il bambino un giaccone di lana dai mille colori tra i quali spiccava il rosso vivo, e un pantalone di velluto marrone con stivaletti bassi di cuoio scuro. «Ciao! Io sono Alia», disse la bambina. «E io sono Kim. Finalmente sei venuto, è da tanto tempo che ti aspettiamo». «Felice di incontrarvi», rispose Pim sorridendo. «Ma perché dite che è tanto che mi aspettate? Sono sorpreso». «Beh, di sorprese ne avrai tante», gli rispose Alia. «E sono sicura che ti piaceranno. C'è così tanto che questa casa, che come noi ti stava aspettando, ha voglia di farti scoprire». «La prima cosa che scoprirai», aggiunse Kim sorridendo, «è che qui non c'è fretta, perché c'è tutto il tempo che vuoi». «E senza fretta sentirai», disse Alia, guardando Pim con i suoi grandi occhi neri, bellissimi e splendenti, «che il tuo cuore è più leggero e che puoi goderti tutto quello che c'è». «Visto che non c'è fretta», proseguì Kim, «che ne dici se entriamo? Abbiamo preparato un piccolo rinfresco per te. Gelato di anguria con accompagnamento di fragole e mirtilli. E acqua frizzante con scorza dei limoni di Sorrento», concluse Alia. Entrarono e Pim ebbe di nuovo la sensazione di conoscere quel posto, di essere finalmente a casa. Ne riconobbe ogni angolo, ogni particolare, e sentì, non a parole ma nel cuore, che la casa gli stava dicendo bentornato. Intuì che quella casa era una creatura viva. Che legno, acqua, terra, aria, e fuoco, le donavano un'energia forte ed armonica. E che prendersi buona cura di chi ci abitava era la sua missione, e la sua gioia allo stesso tempo. Riconobbe il camino col fuoco scoppiettante e l'accogliente poltrona, capace di sdoppiarsi, o triplicarsi, o quadruplicarsi, e così via, a seconda del numero degli ospiti che avevano voglia di chiacchierare in quel luogo fatto apposta per l'ascolto. Quando salirono al piano di sopra, riservato alle stanze da letto, guardando in alto, scoprì che non c'erano né il soffitto né il tetto. C'era invece un cuscino d'aria, che proteggeva le stanze mantenendo una temperatura perfetta, quella ideale per ammirare il cielo pieno di stelle e passare dalla veglia ai sogni. Proprio in quel momento, nel limpido cielo azzurro apparve all'improvviso un temporale estivo e scrosci di pioggia con gocce grosse come noci caddero sul cuscino d'aria trapassandolo senza sforzo. Appena entrate nella stanza esplosero sibilando e formarono una stella dai mille colori, che Alia e Kim guardarono con occhi gioiosi scoppiando in una sonora risata. Quando tornò il silenzio, una voce melodiosa, che Pim chissà come intuì essere quella della casa, intonò una canzoncina. «L'anguria vi aspetta, pazienza benedetta. Scendete in cucina, la notte si avvicina». Alia e Kim corsero verso le scale, che si trasformarono in uno scivolo portandoli in un istante in cucina. Appena Pim mise un piede sul primo scalino si ritrovò anche lui a scivolare e dopo tanti anni riscoprì che era davvero divertente. Tutti e tre si sistemarono su comode sedie di legno di ciliegio intorno al tavolo di marmo bianco della cucina e iniziarono a mangiare i gelati alla frutta. Sembrava una gara a chi finiva per primo, che nessuno sarebbe riuscito a vincere però, perché le coppe di cristallo, non appena l'ultimo cucchiaino lasciava il fondo, si riempivano di nuovo. Capita la situazione, la voce della casa intervenne di nuovo cantando. «La pancia è bella piena, tirate sulla schiena. Sciacquatevi la bocca, con l'acqua della brocca». Una caraffa di ceramica versò nei bicchieri la deliziosa acqua con le scorze saporite dei limoni di Sorrento, che tutti e tre bevvero allegramente. Completamente sazio e a suo agio, Pim riprese a parlare. «Questo posto è incredibile, è proprio speciale». La voce della casa intervenne di nuovo, questa volta a ritmo di musica rap. «Che ci trovi di speciale? Questo posto è assai normale». «Normale?» disse Pim. «Non mi sembra proprio. È tutto così straordinario qui. Non capisco». «La realtà capire vuoi? Non c'è dubbio che tu puoi». «A dirti tutta la verità», intervenne Pim, «la musica rap non è il mio forte. Mi trovo più a mio agio con la musica classica. Comunque sia, certo, mi piacerebbe capire la realtà. Ma come? Più giocare più volare, più nel sogno devi entrare». Scusami, ma proprio non ti seguo. Che vuoi dire? Tutto è qui presente ora, anche se non vedi ancora. Tutto è qui nell'infinito, tutto quanto è anche unito. Siamo uno e vibrazione, ciò che fai tocca anche me. Siamo uno in espansione, cielo e terra, io e te. La creazione è in espansione, e si espande grazie a te. Pim era rimasto senza parole, e dalla sua espressione era facile intuire il suo stupore. Qualche dubbio già ti assale? Un respiro può aiutare. Per giocare ed imparare, questo posto è l'ideale. Devi solo immaginare, e ogni dubbio eliminare. Pim ascoltava a bocca aperta. Non ti preoccupare, disse con voce rassicurante Alia. Quando la nostra casa prende il via, è difficile fermarla. Le piace tanto la musica, e le piace ancora di più cantare canzoni che fanno pensare chi ascolta. Non importa se non capisci ora, continuò Kim. Ti assicuro che le canzoni di questa casa sono come piccoli semi. All'inizio è difficile persino vederli, ma inesorabilmente, un piccolo passo alla volta, raggiungono la dimensione delle sequoie giganti. Quando questo avverrà, fu di nuovo Alia a parlare, ciò che ora ti sembra oscuro e impossibile, diventerà sorprendentemente chiaro. Ascoltando le rassicurazioni di Alia e Kim, Pim riprese un po' di coraggio e disse, «Sono proprio felice di conoscervi. Ma devo confessarti, Kim, che quando hai detto finalmente sei venuto, è da tanto tempo che ti aspettiamo, sono rimasto sorpreso. Anche se ora, forse perché ho la pancia bella piena, ho anch'io la sensazione di avervi già conosciuti. Strano, visto che è la prima volta che ci incontriamo. E invece ci conosci molto bene, gli rispose Kim, perché abbiamo passato tanto tempo insieme. Tante storie, tante avventure, tanta vita. Tante vite direi, sussurrò Alia ridendo. Sì, ci conosci e ti conosciamo molto bene. Tra qualche anno nasceremo, e tu e Cecilia sarete lì ad aspettarci. Ogni volta che penso alla vostra accoglienza sono molto grata di avervi scelti come nonni. Mi piace tantissimo vedervi il giorno della mia nascita mano nella mano, e mi commuovo per quelle lacrime di gioia che non riuscirete a trattenere. Io Alia sarò la figlia di tuo figlio, e Kim di tua figlia. Ma perché ci stiamo incontrando ora, chiese Pim, se ci incontreremo tra qualche anno, quando nascerete? Perché questo è il tuo desiderio. E i desideri sono capaci di cambiare la realtà muovendo le montagne del dubbio. Pim era molto attento e curioso, ma cominciò a capire che qualcosa stava cambiando. La chiarezza con cui aveva visto fino a quel momento ogni cosa lentamente stava svanendo. Anche le parole che sentiva non erano più così chiare. Percepiva una strana pesantezza e intuì di non avere più tanto tempo per stare insieme ad Alia e Kim. «Vorrei conoscervi meglio», disse con voce fioca. «Mi piacerebbe tantissimo, ma non so se c'è tempo». «C'è tutto il tempo che vuoi», risposero sorridendo Alia e Kim. «Qui siamo nell'Eterno. Ci sono infiniti sogni che potrai sognare venendoci a trovare di nuovo. Sensazione di svanire. Immagini che si confondono. Le parole diventano sussurri. Tornerai, non ti preoccupare. Non c'è dubbio che volare ti piace. Per entrare in questo posto la chiave è un'anima bambina. Tu ce l'hai, per fortuna. Ci rivedremo presto.